Ferragosto, padrone mio, non ti conosco. Tutto nero sei tornato, abbronzato ed arrabbiato. Quattro membri hai licenziato nella commissione interna. L'autunno sarà un inferno se non li riprendi a lavorare. Ferragosto, padrone mio, non ti conosco. E lo yacht con la bandiera del Panama, te l'hai fatto col sudore della gente che stai a sfruttare. Ferragosto, padrone mio, non ti conosco. Riconoscere più non voglio la tua cara proprietà, perché frutto dello sfruttamento di noi operai. Ferragosto, padrone mio, non ti conosco. Tutto nero sei tornato, abbronzato ed arrabbiato. Ma noi altri operai arrabbiati siamo di più, e in coscienza maturati, perciò stanchi d'essere sfruttati. Ferragosto, padrone più non ne riconosco. Il profitto del lavoro a chi lavora deve andare. Elemosina è il salario, sfruttamento lo straordinario. Ferragosto, Ferragosto, di padroni non ne riconosco.